Pelé. Tre brasiliani neri, neri, come tre chicchi di caffè. Sono babà, babà, di Pelé. Babà, di Pelé. Ti fan ballare la nuova samba, segnando con la 3-3. Sono babà, babà, di Pelé. Nel magico Brasile ogni domenica che festival, scoppiano in cielo qualche artificial, sono felici come fosse eternamente carneval. Babà di Pelé. Tre giocolieri di cioccolata, del verde regno del caffè. Sono babà, babà, di Pelé. Sono babà, babà, di Pelé. Sono babà, babà, di Pelé. Baio, baio, baio, babà, c'è la macumba, tutti San José. Nel Brasil Copacabana, tutti San Dové. Nel Brasil ci son tre maghi, sono questi tre. Babà di Pelé. Sono babà, babà di Pelé. Babà di Pelé. Sono babà, babà, di Pelé. Nel magico Brasile ogni domenica che festival, scoppiano in cielo fuochi artificial, sono felici come fosse eternamente carneval. Babà di Pelé. Tre giocolieri di cioccolata, del verde regno del caffè. Sono babà, babà, di Pelé. Sono babà, babà, di Pelé. Sono babà, babà, di Pelé. Baio, baio, baio, babà, baio, baio, babà.